metallo in titanio, doppio vetro, per dire quello che ho io, e, come si chiama, Xiaomi MI9, si chiama il mio, c'ha il doppio vetro da tutte e due le parti, poi fanno lo stesso, il Redmi 9 che è uguale a quello, però non ha il vetro dall'altra parte, però il cellulare è uguale, e poi magari esiste con le prestazioni un po' più basse, con la RAM leggermente inferiore, il mio ne ha 6-8 di RAM, 128 di ROM, c'ha 3 fotocamere e tutto, per quel prezzo che ho pagato non c'era niente di meglio sul mercato. Ho capito, va bene, ma come ti ho detto poco fa, perché io comunque ho sempre la radio seca e tutto, anche se ero lontano, sono entrato da poco. Pochi minuti prima di entrare tu. Ah, ok. Vabbè, non c'è rimasto nessuno tranne Luca, possiamo mangiare? Io sono arrivato e mi ha detto Luca che forse erano andati via, non lo so. Io ho sentito propagazione, c'erano segnali dopo da tutte le parti. Ho chiamato e mi ha risposto Luca. Avanti, se c'è ancora Luca, ci si. Ma non è un po' si è abbassata la propagazione, perché cazzo, era 9 poco fa. Attenzione, canale 10 che vuole entrare avanti. Dunque, quando è così la propagazione è brutta, non mi piace, è troppo aperta, è un territorio troppo vasto. E ieri anche l'avete finita, Riccardino? Ieri per che cosa? Io sono andato via ieri notte, quando poi o tu sei andato via, tu sei rientrato dopo, tu hai detto andando a mangiare? Ah no, sono rientrato perché mamma un po' così di solito o quando vuole. Va bene, ci sei rimasto su canale 10, 27075. Lo so, però è brutta la propagazione di quella che si stava con tutti e non si capisce niente poi. Chi c'è? Nel frattempo è rientrato qualcuno su 10? Luca. E io. Chi è questo? Avanti. 9 più 5 era questo, non so chi sia. Ok, cosa volevo dire? Stavo dicendo, tu ti dovrai riabituare quando andrai a scuola, ci avrai poco tempo libero per andare sul baracchino, ma diciamo qualche cosa, qualche pezzettino di tempo libero cerca di occuparlo, così non ti dimentichi. Come si chiama Riccardo? No, infatti. Sto pensando di organizzarmi bene perché adesso bisogna vedere perché stanno dicendo che forse saranno i proprietari che quelli liberati. Immagina così posso parlare. Vabbè, anche se c'hai torni serali dopo una certa ora, mica ti tengono sino alle 8 a scuola, ti faranno fare sino alle 6, massimo 6 e mezza, dopo già ne entra di gente, perché molti lavorano. Lo so, però poi c'è il problema, si mettono compiti, devo fare tutti i compiti, e quindi entro in ritardo, e so che c'è anche anni, certe volte sono a tardi, che la settimana lavori. Sì, ma se va la sera te li fai domani mattina, i compiti già ce l'avrai, il tempo per farlo, gli devi se li fai la mattina, te li fai dopo pranzo, quando ne hai voglia. L'importante è che non perdi la scuola, come c'è un tipo studioso, ti stai andando bene a scuola. Sono andato bene comunque, no? Ma se forse c'era qualcuno che voleva entrare avanti. Questa radio ti piace, Riccardo? Sì, qual è? Quella che ti ha dato Claudio? No, il microfono sopra la radio è sempre la mia, è sempre la stessa, il microfono è diverso. Ah no, sì, comunque stai andando bene, no, perché ho saputo, non si deve rispondere lo scambio con Trois, non so che cosa prende. Vabbè, già ne parliamo a quattro chiedi, quella studia di là. Cosa volevo dire? Ma voi state facendo le. Io ho due insegnanti in casa, due mie sorelle sono insegnanti e con gli allievi fanno via webcam, anche tu le stai facendo le lezioni? Sì, sto facendo le lezioni di chiamata. Ti trovi bene o hai difficoltà? Perché ci sono quelle rompe perché fanno lunedì, mercoledì e venerdì, e qualcosa anche il giovedì e aspetta, c'è qualcuno avanti che vuole entrare. Sembra sono portante, ok, vabbè, inglese naturalmente non è una materia così importante come può essere la matematica o l'italiano nelle scuole italiane, le fanno fare un'ora, massimo due ore alla settimana. Come sta? La matematica ti piace, sei bravo? Nelle eventualmente se ti prendi la patente, ci sono tante cose che è fondamentale in tutto, in qualunque argomento e qualunque professione la matematica è la materia più importante in assoluto. Poi ci sono le specializzazioni, se vuoi fare elettrotecnico ti fai l'elettronica, se vuoi fare il geometra tu di altre materie tecniche, però la matematica in ogni argomento, dalla tecnica e diciamo elettronica ai geometri o altri tipi di attività professionali, è la materia che figura da sempre, da tutte le parti. Dimmi tu. Comunque domani dobbiamo ripassare. Passa quando vuoi, non ti preoccupare, non c'è problema. C'era anche Eugenio, gli ho dato la moto, gli ho dato oggi, era contentissimo. Non è stato Eugenio, ah no, quando oggi lavora, mi ha detto che stava lavorando, entrava alle 6:30, doveva entrare. No, ma già è entrato, ha detto che quando che stava per entrare al lavoro è entrato, me l'ha detto la moto che l'ha presa oggi, era contento comunque. Sì, domani ti porto la pennina. Così la proviamo sul computer mio, dai. Me la devo comprare anche una di quelle, perché la mia non è adatta. No, ho capito, sì, ma spero che quella funziona, perché non è stata pagata comunque, è stata pagata un po' di più. Quanto l'ha pagata? 30. Vabbè, il prezzo suo, dai, più o meno, te ne chiedono anche di più a seconda di cosa. Come c'era la connessione? A vitatura per attaccare l'antenna o a coso? O tipo la spina della televisione di casa? Tipo la spina della televisione di casa, praticamente ha un attacco tipo quello dell'antenna. Meglio ancora, dai. Perché poi ci sono quelli che hanno l'attacco SMA, che sono un po' più particolari, quelli che usano negli apparati di misurazione, tipo misuratori di campo, analizzatori, eccetera. Quella che c'è lui è così, e poi gli ho fatto l'adattatore per attaccare il PL, per cui posso metterci qualunque tipo di connessione. Ok, vediamo Luca se c'è ancora. Luca? Sì, vabbè, sono qua, sto aspettando la pizza. La partita ti sta guardando? Sto aspettando la pizza, non la partita. Ah ok, tu pennine di quelle per ascoltare, ne hai Luca? Cioè? Quelle che avete che puoi ascoltare, tipo un ricevitore, attacchi l'interfaccia al computer e ti fa un ricevitore di qualità altissima. No. Vabbè, a te non è che ti sia mai appassionato, mi pare, così è lui, di ascoltare. No, assolutamente. No, io invece soprattutto mi piace ascoltare, trasmettere fino a un certo punto, però mi piace ascoltare tutto, tutte le bande, eccetera. Sono grande appassionato da sempre, da quando ero ragazzino. Vabbè, prima c'era di più la passione, adesso un po' meno, va. Un po' meno, domani dovrebbe arrivare il 3009, speriamo. Quanto costa, se lo vuoi dire? Ma nuovo usato? Usato, ma è nuovo, non è come nuova foto. Mettimi anche quanto l'hai pagato, se lo vuoi dire, solo per curiosità. Niente, da 125. No, già un buon prezzo. Se è buono l'apparato e non è stato manomesso, è un ottimo prezzo, dai. Adesso lo andiamo a fuori. Ehi, vai Riccardo, riprenditi il macchio. Ehi, va bene, riprendo io. Ma non ho capito, perché c'è il tuo 2009, quello con l'altro telecomunicatore, quello che mi dà anche il quello normale. Il classico, con lo Smith, con la... il classico. Ah, ho capito, sì, quello che senza l'altro Smith che ti dà anche questo. Come hai detto, stai prendendo per avere qualcosa di più recente, Luca? Così, mi piace, muovere parecchio. Aspetta, sono 8, 8, 9, vediamo un po'. si dà ciao. Perché l'ho inviato a più persone. Quindi un po'. Eccolo qua. No, questo no. Mi ha parlato Luca? Sì. Ecco l'importante, dai. Puoi fare quello che vuoi, l'importante è che siamo là. Si chiama On the Road. C'era Marco Condor e c'è una meraviglia con quel baracchino. Però voi siete tutti fissati con questi veicolari, a me proprio non è mai una tirare a bar, proprio non mi piace, io sono fissato con le basi. Male, ma nel senso di sì. Aspetta, come ascolti a me, l'amico carissimo della Puglia, così, operatore Roberto, mi ascolti a me. Positivo, dai, mi arrivi con le 9.30 e una 5, bella, forte, forte. Anche tu stai arrivando oltre 9, c'è un po' di UQSB, però i passaggi anche oltre 9 l'hai superato. Ok, ti rilancio Riccardo, il più giovane qua della frequenza. Riccardino, avanti per l'amico della Puglia. Ciao Puglia, buonasera. Stata 351, Alfa 21 da questa parte, operatore Riccardo. Se mi dai un controllo, tu qui mi arrivi 9.10 Radio 5 comunque. Vediamo un po', Puglia, ascolti Luca qua, Nord Sardegna, in quella di Sassari, avanti. Sardegna, se mi copri ancora, non riesco a tirarvi più fuori. Guarda un po' se mi ascolti adesso, Puglia, cambio. Positivo, dai, adesso comunque, da parte mia Daniele, QDH, Massa. Amico alla Puglia, ascolti Alfa 21 da questa parte. Se non mi fate sentire in Puglia. Lasciamo parlare, che stava parlando Riccardino. Daniele è dalla provincia di Taranto, comunque ben sentito qua a Nord Sardegna, siamo in tre, Roberto in questo momento, Riccardino e Luca. Ti rilancio il mic, avanti a te Daniele da Taranto. No, diciamo Riccardino ha ascoltato, c'è un po' di problema e non ti ascolta più di tanto, è un po' difficoltoso, mentre a me mi ascolti bene Daniele da Taranto. Forse si è perso, ci sei ancora Daniele? Vediamo, probabilmente è calato il coso, il passaggio della propagazione. Avanti Riccardino. Ma questa cosa è strana, cioè non mi faccio sentire in tutto il mondo, non mi faccio sentire in Puglia. Devo migliorare, mi devo mettere la radio molto più potente, così spaccherò i timpani anche in Puglia. Oh, scusatemi che devo andare a mangiare, ci sentiamo tra poco, dai, ciao ciao. Ciao Roberto. Mia Roberto, anche io sto aspettando la pizza, ci sentiamo dopo, dai, anche a te Riccardino, dopo, ciao. Ciao Luca, dopo. Anche io, se ci siete da mangiare, io non ho neanche la pizza. Vabbè, ciao, a dopo. Ciao.